Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Entrate ancora in calo, debito pubblico record, Frattini all'Europa più morbida sui conti o non votiamo la strategia comune. Pomigliano, ultimi appelli alle 14, l'assemblea dei lavoratori. In Sudafrica il debutto degli azzurri, ma per la pioggia salta l'ultimo allenamento. L'inno nazionale sia obbligatorio, il ministro La Russa riapre la discussione. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati, questi i titoli, ma prima andiamo in Sudafrica dove il nostro Dario Ricci ci aspetta in compagnia di alcuni ospiti. Buongiorno, buongiorno Dario, innanzitutto piove ancora? Sì Anna, piove ancora qui a Cape Town, ho trovato rifugio a 300 metri dallo stadio del Greenpoint Stadium in un ristorante italiano, il Mario Restaurant, e sono seduto nel posto che di solito è occupato dall'ex presidente premio Nobel De Klerk, quindi insomma tanto per capire. Un posto prestigioso. Esattamente, vicino a me c'è la signora Pina Marzagalli, da 42 anni a Cape Town, titolare del ristorante. Allora, signora Pina, una grande emozione avere gli azzurri così vicini. Sì, una grande emozione che mi viene anche da piangere, anche se tutti questi anni via dall'Italia siamo sempre molto patriottici, devo dire la verità. Stasera quando suonerà l'inno nazionale? Ah no, io devo nascondermi se no piango, è una cosa più forte di me. La signora Pina, Anna, tra l'altro ha messo già a punto un piatto in caso di successo degli azzurri contro il Paraguay. Come ce li cuciniamo questi paraguayani, signora? Allora facciamo una striscia verde di tortelloni di ricotta col pesto, i gnocchi per il bianco con il gorgonzola e un pochino di crema e le penne al pomodoro, giusto pomodoro, no basilico, sennò va dentro ancora il verde. Allora, tricolore fatto anche a tavola, speriamo davvero che qui a Cape Town i paraguayani non ci restino sullo stomaco, ecco. E sul campo, Dario, che si dice? Beh, sul campo ci sono i dubbi della formazione, Marcello Lippi ha detto di avere le idee chiarissime, noi provare a interpretarle meno, comunque Montolivo dovrebbe essere il vice Pirlo infortunato, e poi sulle fasce Criscito, Bocchetti, Maggio e Zambrotta sono in lotta per le due maglie da terzini. Staremo a vedere, occhio all'attacco dei paraguayani, perché tra Roque Santa Cruz e Barrios e Nelson Valdez, insomma, c'è poco da stare tranquilli. Grazie a Dario Ricci, ci risentiremo naturalmente nel corso della giornata, aspettando il debutto azzurro questa sera ai mondiali. Grazie, tra poco parleremo anche noi dell'inno d'Italia, intanto però abbiamo le altre notizie di GR24 e parliamo invece di bilanci per un'altra Italia, l'Italia dell'economia, bilanci che già si fanno, in primo piano ancora ci sono i dati economici quest'oggi, davvero cambiamo decisamente pagina e salutiamo questa volta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, settimana che si apre con importanti indicatori economici. Il primo dato arriva dalla Banca d'Italia, riguarda il debito pubblico. Ad aprile si è raggiunto un livello record con oltre 1.812 miliardi di euro. Scendono inoltre parallelamente, sempre secondo l'Istituto di Via Nazionale, le entrate tributarie. Nei primi quattro mesi dell'anno si sono attestate a 104,7 miliardi di euro, in calo di 2 miliardi. Sempre in tema di dati macroeconomici ed in particolare sul debito, c'è da sottolineare l'avvertimento del ministro Frattini all'Europa parlando del documento di strategia contro la crisi. Il nostro ministro degli esteri ha detto: siamo pronti a negare il nostro consenso se non ci sarà un riferimento al debito aggregato, non solo al debito pubblico. Tesi questa cara anche al ministro del welfare Sacconi, che dice l'importante è la sostenibilità del debito. Sentiamo le sue parole. E noi abbiamo un disavanzo sul PIL che è più contenuto insieme a quello dei tedeschi rispetto a tutti gli altri paesi e che con la manovra rientra nei parametri europei. Infine altri due dati sul mondo del lavoro. L'Istat segnala un aumento delle retribuzioni nel primo trimestre del 2010, l'OCSE parla di un tasso di disoccupazione stabile ad aprile nell'area euro. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta, questi i dati dell'Italia economica, e a Milano intanto in corso proprio in questi minuti l'assemblea di Assolombarda con la presidenza degli industriali Emma Marcegaglia, Stefano Totoro. Sì, buongiorno a voi nostri ascoltatori, proprio in questi questi istanti sta parlando, come magari potete sentire in sottofondo, il presidente di Confindustria è Marcegaglia, che è tornata anche sulla manovra, ma piuttosto sulle manovre in atto in tutti i paesi europei. Il presidente Marcegaglia ha voluto sottolineare come la Germania sia il benchmark, sia che la Germania detti la linea sulle manovre economiche. Germania con una manovra economica da 80 miliardi. Prima dell'intervento del presidente Emma Marcegaglia ha parlato il ministro dell'interno Roberto Maroni, che appunto è tornato anche sulla manovra economica. Viviamo in un momento di crisi, il governo ha preso delle decisioni significative, ha detto Maroni, è una manovra pesante, però, ma è meno pesante di quella degli altri paesi, riferendosi appunto alla manovra presa dal governo italiano. È una manovra che, dice Maroni, ha previsto una situazione difficile. Maroni ha parlato anche di tagli che le regioni devono subire, riferendosi soprattutto ad una polemica che è arrivata nei giorni scorsi dagli enti locali, ma tutti devono fare sacrifici, ha detto Maroni, compresi gli enti locali. Dunque, davanti alla platea degli industriali a Milano, che si parla della manovra economica, il ministro Maroni ha parlato anche di sicurezza e legalità, sottolineando i passi avanti del governo Berlusconi negli ultimi 2 anni. Naturalmente vi daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni del GR24. Per il momento è tutto. Grazie a Stefano Totolo. E nelle prossime ore si conosceranno anche le decisioni della FIOM su Pomigliano. I metalmeccanici della CGIL hanno convocato tra un'ora alle 14 il comitato centrale, dopo che venerdì sera non hanno firmato il documento proposto dal Lingotto. E allora, che clima c'è a Pomigliano? Qui ci aspetta Paolo Picone. Sì, buongiorno. Il clima è quello dei grandi momenti e delle grandi decisioni. Oggi sono rientrati in fabbrica dalla cassa integrazione a Pomigliano d'Arco un centinaio di lavoratori della linea Alfa 147. La maggior parte, secondo quanto ci hanno riferito, si è espressa positivamente per l'accordo raggiunto venerdì scorso da FIM, UILM, FISMIC e UGL. La voglia di tornare a lavorare sul serio è tanta dopo 2 anni e più di cassa integrazione, e questo potrebbe pesare in modo decisivo sull'esito del referendum che dovrebbe tenersi presumibilmente tra giovedì e venerdì. Quindi è al giro di boa la trattativa sullo stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco. Ovviamente i fari degli operai di Pomigliano sono puntati tutti sul comitato centrale che FIOM CGIL terrà tra poco alle 14 a Roma. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. E grazie anche a Paolo Picone. Intanto arriva una nota d'agenzia proprio su questo: da parte di queste presidenze è stato assicurato il corretto svolgimento di tutti i lavori, ma si va verso il no. Così l'attivo della FIOM, dichiarazione arrivate a pochi istanti prima, dicevamo, dell'incontro anche a Roma. C'è un'altra notizia dell'ultima ora e riguarda il disegno di legge sulle intercettazioni. Da parte di questa presidenza è stato sempre assicurato, e lo sarà in futuro, il corretto svolgimento dei lavori parlamentari. Così una lettera inviata al capogruppo dei deputati del PD Dario Franceschini, a scriverla il presidente della Camera Gianfranco Fini. Garantirò un iter corretto, dice il presidente della Camera. Andiamo all'estero. Dopo giorni di trattative, Israele ha deciso di formalizzare questa mattina la decisione di istituire una sua commissione d'inchiesta pubblica e indipendente sul sanguinoso blitz contro la flottiglia di navi che voleva portare aiuti nella striscia di Gaza. Una decisione, quella del governo israeliano, immediatamente approvata dalla Casa Bianca. Secondo un comunicato diffuso dall'ufficio del premier Benjamin Netanyahu, la commissione sarà composta da esperti israeliani, ma con la presenza di 2 osservatori stranieri. E a Milano questa mattina ci sono stati i funerali di Monsignor Luigi Padovese, il vescovo assassinato in Turchia. Per noi c'era Katia Caramelli, che è qui in studio. Buongiorno. Sì, buongiorno Anna. Si stima che erano almeno in 6-7 mila le persone che hanno preso parte oggi nel Duomo di Milano ai funerali di Monsignor Padovese, ucciso il 3 giugno scorso a coltellate dal suo autista. C'erano ovviamente i familiari, Padovese era milanese, tantissimi religiosi, esponenti anche di altre confessioni, ma c'era soprattutto tanta gente che ha voluto salutare quello che era un uomo di dialogo e di pace. Anche noi lo avevamo conosciuto così. In apertura di cerimonia è stato letto il messaggio del Papa, sentiamo un passaggio. Il Sommo Pontefice si unisce a tutti i presenti nel raccomandare l'anima nobile di questo amato pastore all'infinita misericordia di Dio e nel rendere grazie per la sua generosa testimonianza al Vangelo ed il suo fermo impegno per il dialogo e per la riconciliazione che ha caratterizzato la sua vita sacerdotale ed il suo ministero episcopale. 350 i sacerdoti, 40 i vescovi a concelebrare, a presiedere il cardinale Dionigi Tettamanzi. Sentiamo un passaggio dell'omelia. Chicco di grano che silenziosamente porta frutto è stato Padre Luigi nei suoi incessanti sforzi di costruire spazi di dialogo e di incontro tra culture, tra religioni, tra gli stessi cristiani. Ogni uomo di buona volontà riconosce in questo vescovo, mite e sapiente, un vero costruttore di riconciliazione e di pace. E il Papa ha già scelto il successore di Monsignor Padovese, il nuovo vicario di Anatolia e Monsignor Ruggero Franceschini, arcivescovo di Smirne, era presente ai funerali e in chiusura di cerimonia ha rivolto questo appello. Alle chiese sorelle chiediamo vocazioni, in particolare sacerdoti, religiosi e religiose, per una missione difficilissima, ma senza sconti e senza compromessi. Non voglio ingannare nessuno davanti a questa bara. A chi si occupa di formazione, tenete aperta una finestra su questa terra e sul dolore della Chiesa che la abita. Siate la voce di chi non ha neanche la libertà di gridare la propria pena. La verità e la giustizia al di là di ogni umana convenienza. E Monsignor Padovese sarà seppellito qui a Milano, è tutto. Grazie a Katia Caramelli. Una balla colossale. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, definisce così la notizia che all'inaugurazione di una scuola avrebbe fatto suonare il va pensiero di Giuseppe Verdi al posto dell'inno di Mameli. Sarebbe una cosa da impeachment, dice, io ho giurato sulla Costituzione. E oggi una proposta la lancia il ministro della difesa Ignazio La Russa, che dice l'inno sia obbligatorio in alcune circostanze. Intanto, nelle ore in cui è polemica per l'inno di Mameli, questa sera l'inno d'Italia toccherà cantarlo agli azzurri in Sudafrica, come dicevamo in apertura col nostro Dario Ricci. E allora, quanto ci si riconosce negli inni nazionali? Il dibattito ha molti anni, più della Lega Nord, anzi più della Lega Lombarda, nata nel 1982. Un anno prima, addirittura il 6 febbraio 1981, la discussione era stata rilanciata dalla trasmissione televisiva più popolare dell'epoca, Portobello. Un giornalista genovese, Giancarlo Zuccaro, convinse Enzo Tortora a lanciare un referendum telefonico sull'inno nazionale preferito. Vinse proprio il coro del Nabucco di Giuseppe Verdi. Su 8.000 votanti, oltre 5.000 preferenze al va pensiero, 1.400 a Fratelli d'Italia. L'idea affascinò poi anche Bettino Craxi, Rocco Buttiglione, lo scrittore Guido Ceronetti e appunto i leghisti, ma non tutti. Lo sceriffo di Treviso Gentilini dichiarò: su questa faccenda mi sento un alpino, non un politico. Nabucco o non Nabucco, l'inno di Mameli ha sempre avuto detrattori. Garibaldi gli preferiva la Marsigliese degli italiani e anche Puccini sosteneva che tra Novaro e la musica c'era un dissidio insanabile. Lo stesso Giuseppe Mazzini nel 1848 commissionò un altro poema a Mameli e lo fece musicare proprio a Giuseppe Verdi, inno che non ebbe fortuna alcuna. E il controverso Fratelli d'Italia, tra uno scossone della storia e l'altro, ha resistito negli anni. È provvisorio dal 1946, non è mai stato inserito nell'articolo 12 della Costituzione, ma è l'inno della nazionale, quindi da questa sera tornerà ad essere in discusso fino a fine mondiali, almeno per gli azzurri. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:19, le notizie principali di GR24 di oggi. Entrate ancora in calo, debito pubblico record e Frattini dice all'Europa sia più morbida sui conti o non votiamo la strategia comune per la crisi. Fini scrive al PD, garantirò un iter corretto al DDL sulle intercettazioni. La lettera inviata al capogruppo del PD alla Camera dal presidente Fini. Pomigliano ultimi appelli alla FIOM che si riunisce alle 14, ma per Pomigliano si va verso il no ad un accordo. L'inno nazionale sia obbligatorio, il ministro La Russa riapre così la discussione. E intanto questa sera a cantare Fratelli d'Italia in Sudafrica saranno gli azzurri al debutto mondiale. Per la pioggia saltato oggi l'ultimo allenamento. Ripartiamo dal Belgio, come avevamo detto, quella che sentite è la festa ieri sera dei separatisti della nuova alleanza fiamminga, hanno vinto alle elezioni in Belgio e ora Bruxelles rischia di diventare sempre più capitale europea perché il suo paese rischia di perderlo. Michele Pignatelli, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, come hai detto giustamente tu, il destino anche di Bruxelles città e ovviamente al centro degli interrogativi un po' di tutta l'Europa in queste ore. Il Belgio, ricordiamo anche che sarà presidente dell'Unione Europea a partire dal mese prossimo, il destino di Bruxelles, ma soprattutto il destino del Belgio dopo i risultati sorprendenti oltre i sondaggi che si sono registrati ieri. È stata netta la vittoria dei separatisti della nuova alleanza fiamminga che nelle Fiandre, ricordiamo che in Belgio si vota su due sistemi partitici separati, nelle Fiandre hanno ottenuto ben il 28,2% dei voti, questi sono i risultati definitivi. Nessun partito che aspirasse all'indipendenza o all'autonomia della regione aveva mai fatto tanto. In Vallonia hanno vinto invece altrettanto nettamente, un partito però più tradizionale, i socialisti, e a questo punto si tratta di capire che cosa succederà. Sono già iniziate le consultazioni, il re stamattina ha già ricevuto il premier uscente Yves Leterme, il rappresentante di un partito che invece ha subito una sconfitta, il partito cristiano democratico. Nel pomeriggio andranno invece dal re i due trionfatori, De Wever, appunto il leader del partito fiammingo, e Di Rupo, il leader del partito socialista. I due sembrano in qualche modo quasi obbligati a parlarsi perché si tratta di creare a questo punto un governo di coalizione, come sempre in Belgio. Naturalmente il nodo grosso da risolvere è se si farà un governo con o senza i separatisti della nuova alleanza fiamminga, e questo è ovviamente al centro degli interrogativi. Ecco Michele, quante sono reali poi le possibilità davvero di scissione al di là di questi numeri? Ma nell'immediato non sono tantissime, nel senso che gli stessi fiamminghi della nuova alleanza hanno dichiarato, lo avevano già fatto in campagna elettorale, di non volere una spaccatura immediata del Belgio, bensì un'evoluzione graduale verso un sistema confederale. Certamente in prospettiva la loro ambizione è invece quella di avere Fiandre separate, ma questo semmai sarà un argomento di conversazione successivo alla formazione di questo governo, che molto difficilmente arriverà a un esito di questo tipo. Diciamo non l'effetto immediato comunque. Non immediatamente. Grazie a Michele Pignatelli. E veniamo ad un'altra vicenda. Si tira un sospiro di sollievo a Mazara del Vallo dopo la notizia che i tre pescherecci sequestrati dai libici giovedì scorso saranno rilasciati dopo l'intervento del presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi. E intanto arrivato in Svizzera l'uomo d'affari Max Göldi, bloccato in Libia dal luglio 2008 fino alle decisioni di ieri. Cosa Nostra cambia volto, restiamo in Sicilia, a Palermo un pentito svela le nuove alleanze. Ho capito che sto per commettere un grosso errore, invece voglio dare un futuro alla mia famiglia. Sono state queste le parole pronunciate da Salvatore Giordano, un commerciante del quartiere Zen di Palermo, il giorno in cui si è presentato dagli investigatori per chiedere di collaborare con la giustizia. Lui, emissario ed esattore della mafia nelle richieste di pizzo, ha già battuto un record. È il primo uomo di Cosa Nostra ad essersi pentito ancor prima di essere arrestato. Grazie ai suoi racconti sono finiti in carcere stamattina 9 persone tra boss e prestanome nell'indagine coordinata dai magistrati della DDA di Palermo guidati da Antonio Ingroia. Secondo la testimonianza di Giordano e l'aiuto di intercettazioni ambientali e telefoniche, i capi dei clan mafiosi di San Lorenzo Tommaso Natale, Acquasanta, Resuttana e Arenella cercavano di ricostruire il dominio su questi mandamenti della città. Negli ultimi tempi i boss avevano deciso di mettere da parte contrasti e rivalità ed era stata suggellata la pace tra i due gruppi storicamente nemici. Quello che faceva capo al boss Gianni Nicchi, arrestato nei mesi scorsi, e quello dei Lo Piccolo, boss di San Lorenzo. In questo modo, racconta Giordano, Cosa Nostra cerca di tornare forte. Secondo le indagini, i boss detenevano il monopolio delle slot machine nella parte occidentale della città. Due centri scommesse sono stati sequestrati e sono stati arrestati anche 3 prestanome dei clan. Nino Amadore, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Partono oggi in molte scuole italiane gli esami di scuola media, circa 575.000 gli studenti chiamati a sostenere le prove che nei prossimi giorni inizieranno scaglionate a seconda dei calendari preparati dai singoli istituti. Quest'anno per la prima volta il punteggio finale degli alunni deriverà dalla media aritmetica dei punteggi. E ora una proposta che farà discutere, una proposta bipartisan che vuole gli uomini a casa dal lavoro quando diventano papà. Né ferie né permessi premio, ma un congedo di paternità obbligatorio di 4 giorni per permettere anche ai neopapà di godersi le prime ore di vita dei propri figli e a stipendio pieno. Eh sì, perché quelle 4 giornate sarebbero a carico delle aziende per i lavoratori dipendenti e del sistema previdenziale per gli autonomi. Alla Camera è già iniziato l'iter per il disegno di legge. 2 le proposte presentate, una della maggioranza e l'altra dell'opposizione. Entrambe hanno come finalità quella di pensare al bene delle famiglie, aiutare le donne nella gestione dei figli e stimolare nei neopadri la voglia di prendersi cura dei loro eredi, ma soprattutto seguire l'esempio di altri paesi europei dove questo tipo di legge è già presente. In Svezia i padri hanno 30 giorni di congedo retribuito, in Francia ne vengono garantiti 11, mentre in Inghilterra sono obbligatori soltanto 3 giorni. Attualmente in Italia il congedo facoltativo è una rarità, lo chiede meno del 4% dei padri. In Portogallo invece, dove il congedo per i neopapà è obbligatorio dal 2002, sono ora il 22% gli uomini che se lo prendono. Quando era facoltativo lo chiedeva meno del 2%. Adriana Fracchia, GR24 e Sole 24 Ore. Lunghe file per ammirare Caravaggio. Ha chiuso ieri sera con il record di circa 580.000 visitatori la rassegna che ha riunito a Roma alle scuderie del Quirinale 24 capolavori assoluti di Michelangelo Merisi. È l'esposizione più vista in Italia negli ultimi 10 anni. Mario De Simoni, direttore generale delle scuderie del Quirinale, al microfono di Roberto Bonaldi. Da quando c'è in corso questa straordinaria maratona di apertura delle scuderie del Quirinale, noi siamo arrivati alle 19, stavamo a 14.000 visitatori, di cui 4.500 nella notte, che credo sia un dato piuttosto interessante. Nella notte come è andata? La prima cosa interessante è stato vedere come cambiava il pubblico. Si è cominciato con i giovani, ma anche con le famiglie la sera, per poi passare ai molto giovani durante le ore profonde della notte, ma consideri che alle 3 di notte c'erano comunque quasi 2 ore di coda, sia pure molto ordinata, per poi passare con grande singolarità alle persone anziane questa mattina intorno alle 6. Una cosa molto piacevole, divertente, anche commovente, era che mi sono reso conto intorno alle 5, 5 e mezzo, che non poche persone si erano messe la sveglia per vedere albeggiare, per vedere l'alba sul collo del Quirinale. Un'esperienza unica nel suo genere, insomma, quasi da record. Sì, direi che l'unicità dell'esperienza è proprio questa, sono 36 ore di seguito addirittura di apertura, e quando per esempio un caso molto simile avvenne l'anno scorso al Grand Palais di Parigi con la grande mostra Picasso e i Maestri, ma loro si fermarono alle 3 di notte, nessuno ha osato stare aperto tutta la notte nell'ambito di un'apertura continuata di ben 36 ore. E noi con questo ci fermiamo qui con questa edizione di GR24, in regia Fabio Cantadori, Anna Migliorati ha curato e condotto questa edizione, ancora una buona giornata, GR24 torna come sempre alle 14. GR24, il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.